Ciao a tutte e a tutti. Oggi introdurremo la puntata in un modo un po' diverso. Vi introduco una canzone di Check, un artista emergente incontrato per caso nei sentieri della vita. Il brano che state per ascoltare è un mix di evocazioni che riportano al grande tema dell'amore, a volte banalizzato, ma che in realtà contiene una grande profondità e ricchezza di sfaccettature, molto più difficili da cogliere solo per chi sa ascoltare. Desiderio, sogno di forza, cercarsi e trovarsi, trovarsi e cercarsi. Vi lascio all'ascolto delle sue parole e a quello che c'è in mezzo. Baby, vieni via con me, sarò io il tuo re, come nelle favole. Andiamocene via dal club, solo io e te, come una regina, un re. Baby, vieni via con me, sarò io il tuo re, come nelle favole. Andiamocene via dal club, solo io e te, come una regina, un re. Andiamocene via, saluta le tue amiche, sussurri nel mio orecchio che vuoi fare festa, mentre ti muovi e balli come una leonessa, a tratti opposti come la bella e la bestia, curve stile Belen, per te io ammazzerei, completo di Chanel e Gucci, cinta Calvin Klein, pelle cappuccino scuro come il mio destino, sembriamo usciti da una sceneggiatura al Pacino, sai che non mi accontento, vivo per fare questo, mi dissi me lo sento, presto farai successo, dimentichiamoci il passato come fossi un ex, voglio portarti verso il mare più grande che c'è. Il tuo sorriso è droga, coca senza taglio. Basta quello, baby, a ricucire ogni mio sbaglio. Il tuo profumo addosso come fossi un Vuitton. Quando sono con te non penso ad altro, no, no. Baby, vieni via con me, sarò io il tuo re, come nelle favole. Andiamocene via dal club, solo io e te, come una regina, un re. Baby, vieni via con me, sarò io il tuo re, come nelle favole. Andiamocene via dal club, solo io e te, come una regina, un re. Ciao, eccoci tornati a Mala Radio. Vi ho fatto una sorpresa e ho fatto introdurre questa puntata ad un'altra persona, una grande persona che ho incontrato qua, e anche a Check, questo cantante che è una nuova scoperta, che spero che abbia grande successo e che rincontreremo anche nelle prossime puntate, speriamo che faccia altre canzoni belle altrettanto. E l'ho fatto per farvi un piccolo scherzo, perché penso che il nostro intento della serata dell'altra sera fosse proprio quello di mostrarvi quanto noi vogliamo incontrarci e incontrare le altre persone e far partecipare le altre persone a questo progetto che può essere funzionante solo se allargato. E quindi ecco qua la sorpresa. Anche nei posti più impensabili si possono trovare delle persone che vogliono coinvolgersi e vogliono condividere quello che hanno dentro. Vi ho fatto anche il piccolo scherzo di ripartire dal tema dei sentimenti, dato che ormai sarà il mio chiodo fisso. No, vabbè, non perché sono diventata una romanticona, ma perché mi rendo conto che spesso nascondiamo più di quello che potremmo esprimere. Quindi adesso cominciamo invece con la puntata raffazzonata che abbiamo fatto con la cena in panetteria, che vabbè, tanto chi se ne frega se... cioè, mi spiace, mi hanno detto che ci sono stati un po' di disturbi tecnici, ma chiaramente tanto noi siamo famosi per questo, quindi non vi meravigliate. L'importante è, in realtà, secondo me, l'incontro. È bello che dopo tanto tempo ci siano di nuovo delle cene, ce ne sono state sicuramente in Cox, in transiti, eccetera, però appunto anche noi di Mala Radio vorremmo incontrarvi e vorremmo far incontrare gente nel modo più allargato possibile. Quindi avanti con la puntata. La panetteria è occupata, uno spazio in via Conte Rosso a Lambrate, in un immobile occupato nel 1975 ed in un quartiere un tempo operaio e caratterizzato dalla presenza di fabbriche grandi e piccole. La situazione oggi è molto cambiata, ma dal 1991 il collettivo continua a portare avanti il suo impegno nelle lotte per la casa, per il diritto alla salute e alla sanità pubblica e gratuita, a fianco dei lavoratori, degli immigrati e dei precari, sempre più vessati dall'attuale sistema sociale ed economico. In un'ottica internazionalista sosteniamo la lotta del popolo palestinese e di tutti coloro che si battono per la libertà e l'autodeterminazione e manteniamo vivo il ricordo dell'antifascismo militante e della Volante Rossa, perché nostro. Partendo da questi presupposti, la panetteria vuole essere uno spazio di discussione e confronto aperto ad altre realtà, come questa di Malaradio, per continuare a sviluppare il nostro percorso assieme a chi vuole rivendicare la propria dignità e libertà per una società senza sfruttamento ed alienazione. Per avere notizie degli eventi che si svolgono in Conte Rosso si può utilizzare Facebook o, in alternativa, il blog panetteriaoccupata.noblogs.org. E adesso ci ascoltiamo Super Lonely, proprio perché non vogliamo essere super lonely, per chi non sappia l'inglese, super soli o super sole. Ceiling, I knew this would happen. Still hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it. I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's heaven. You're a bad thing. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happening. You're a bad thing. Allora, mentre sullo sfondo di questa bella canzone, Super Lonely, il nostro Simone comincerà a spiegarci che cosa succede questa serata. Vai! Ciao Alice, ciao. Allora, qui siamo in palestra occupata, la gente sta continuando ad arrivare e tra poco si inizia con la cena, tra poco si mangia. Ma cosa succederà in questa serata, Simone? Ma succederà che ci spieghiamo un po' alle persone, no? Ci spieghiamo un po' alle persone, spieghiamo come sarà com'è la nostra radio, che è un progetto aperto, che cerchiamo persone anche per aiutarci e soprattutto ci presentiamo come persone. Ecco. Ma abbiamo anche dei guest, dei special guest alla Sardegna. Abbiamo dei special guest perché abbiamo mandato la nostra squadra, una squadra speciale in un corteo contro le basi militari e quindi ci faranno sentire delle voci da questo corteo. Esatto, allora diciamo che adesso vi faremo un piccolo aperitivo di presentazione della nostra radio che vi manderemo. Eh sì, adesso tra poco chiamo il bambino. Richiamo l'attenzione. Ragazzi, saremo per iniziare. E poi, all'ordine. Diciamo, tra il primo e il secondo sentirete invece il resoconto dei sardi, va bene? Sì, però cosa c'è prima però? Prima, adesso, c'è il sugo della storia, insomma. C'è il sugo della storia, cioè chi siamo, dove andiamo, cosa facciamo. E se andremo da qualche parte. I'm a vi avverto che il contenuto che state per ascoltare è un mismatch disorganizzato e tutto affastellato, quindi non vi meravigliate degli errori e dei problemi tecnici, sono questa volta voluti, nonostante siamo molto famosi per i nostri problemi tecnici. Confidate che il sugo della storia arriverà alla fine. Ciao, pronto? Pronto, pronto, pronto? Ti piace questo spottino? Buongiorno a tutti e tutte. Eccoci una nuova... In trasmissione siamo più energici di così, eh? Ti piace un... Anche tu sai fare uno spottino? Mandacelo! Ci sentiamo giovedì su Mala Radio! Bene, ora avete tutto. Aspettiamo le vostre chiamate o le vostre mail. Ci sentiamo ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.30. Ciao! Aspettiamo le vostre chiamate. Oh, in trasmissione siamo più energici di così, eh? Ti piace questo spottino? Vai. Tu sei l'intervistatore. Intervistaci. Noi ti rispondiamo. Ok. E che devo dire? Ah, ma lui è minorenne. Senza consenso. Sei certo. Ci puoi fare. Hai fatto un sacco di domande fino adesso. Adesso stanno zitti. Le stesse domande. Tipo? Ma se no inventatele. Ma perché non fate canto oppure? Ma cosa fate? Ma cosa fate voi? La radio, ma la radio! Ma secondo te è tutta una favolata, cioè. Secondo me ci sarà minimo uno spettatore. Aspetta il telefono. No, è andata in. Ma perché non questo lavoro qua? Adesso potresti essere a McDonald's a mangiare. Perché il McDonald's fa schifo! Meglio il Burger King! No! Ma no, ma perché sai cosa raccogliamo? No, ci metti le cinti qua, dai! Però si rompe. Vabbè, tanto lo riparo. No, il microfono lo lascio. Tanto stiamo registrando con questa. Ma no, ma noi raccontiamo tutte le, non so, per esempio, avete sentito che ultimamente c'erano state delle grandi proteste in Duomo contro la Palestina. Dai, noi facciamo così, noi raccontiamo io tutte queste cose che succedono. Oppure. Ah, tu eri l'andò. No, io giuro. È andato, sì, con Faisa. È mia sorella. Ah, sei andato, sì. Oppure? Batman. Allora. Ho qua preparato. Batman. Oppure. Ma quindi voi in teoria di tutto il giorno della manifestazione tutta. Ah, anche non so. Ma io credevate che eravate tipo una specie di attività. No! Ma va, no, noi raccontiamo di queste cose, poi non so quando era successo anche la roba, avete presente di... Ma Vasco è tutto strano. Sembra che rosa. Ma lui è Vasco Rossi. Mi metti la firma. Vabbè, non volete farci la famosa. A Milano è nata una nuova radio. È nata Mala Radio. Per ora il nostro palinsesto consta di una sola trasmissione, o forse già due. Ma siccome ci immaginiamo la radio come uno strumento collettivo, ci piacerebbe che voci, idee e storie si moltiplicassero. Per fortuna che a disposizione abbiamo uno streaming di 24 ore. Quindi qualsiasi gruppo o individualità che volesse fare una trasmissione, avanti pure! Scriveteci a malaradio@autistici.org. Abbiamo anche un blog. Buongiorno a tutti e tutte. Eccoci a nuova. Ah no. Eccoci a una nuova. Ultime notizie. Il blocco degli sgomberi delle case popolari a Milano, iniziato a marzo 2020 a causa del dilagare dell'epidemia da Covid, sembra essere finito. Già in autunno, Prefettura, Regione, Comune, ALER e MM hanno siglato un accordo per velocizzare e migliorare le procedure di sgombero. Sentiamo il nostro viato sul campo. Jerry, ci senti? Sì, assurdo, Kelly. Da via Palmiera a viale Monza, da quartiere Lorenteggio a viale Porpora, passando per Ticinese e Corvetto, da inizio febbraio 2021 le forze di polizia e gli ispettori ALER stanno cacciando fuori casa decine e decine di persone. Rotocalchi e quotidiani di qualsiasi colore, imbeccati dall'amministrazione comunale, hanno deciso di tacere su questi sgomberi per non incrementare la tensione latente tra la popolazione merambiente di questa città. Popolazione che subisce già ora la crisi economica aggravata dalle conseguenze sociali della pandemia. Tempi duri per chi non ha il portafoglio gonfio. E anche per chi non ce l'ha. L'assegnazione delle case popolari è ormai un ricordo del passato. I poveri non riescono a pagare l'affitto e per questo non sono più i referenti adeguati per l'edilizia popolare, che apre invece alle classi medie. Che dici, Jerry, a proposito? Ma non so, Kelly, il mercato immobiliare milanese è tra i più aggressivi d'Europa ed è per questo che l'occupazione abusiva è sempre più un percorso obbligato per lavoratori non specializzati, disoccupati, scarsa fatica di questa città. Come leggi il silenzio delle istituzioni? Sembrerebbe che il ricordo dei disordini del 2014 faccia ancora paura a Comune, Regione, ALER e MM. Se la popolazione affetta dal bisogno di casa si riversasse nelle strade, creerebbe un problema di ordine pubblico in cui potrebbero confluire altre cause sociali e potrebbe non essere facilmente gestibile dalle forze di governo. Grazie Jerry. Da parte nostra ci auguriamo come sempre che la rabbia dilaghi. Orecchie aperte e seguite le novità dalle strade e dai portoni. La situazione qui in Italia, purtroppo, 2 anni che sto cercando una casa in affitto, non vogliono affittare soprattutto agli stranieri, anche agli italiani, però soprattutto per gli stranieri, come loro l'hanno detto, che c'è una bambina piccola che è in mezzo, che poi l'hanno truffata, non c'è niente di portarotto o finestre, ha detto di no, il loro capo ha detto di no, la polizia le ha detto che c'è una bambina in mezzo. Ha detto, fatele farla dormire sulla banchina. Me l'ha detto in faccia, il poliziotto che è arrivato. Me l'ha detto in faccia, il nostro capo ha detto così. Rude Girls e Rude Boys, buonasera e bentornati a Suspenders, il programma radio della Char Milano, in onda sempre sulle frequenze di Mala Radio. Prima della sigla vi ricordo che potete trovarci su Facebook e su Instagram, cercando Suspenders Milano, oltre che sul sito ufficiale di Mala Radio, malaradio.noblogs.org. E ora, regia, sigla! All the girls should wear suspender belts. Hey, viva suspender. Viviamo in un mondo in cui il giusto, lo sbagliato, il vero, il falso, il bello e il brutto si confondono in continuazione. Siamo la terra delle contraddizioni continue e sia la storia che l'attualità di questo paese ne è piena. Di esempi ne abbiamo a iosa per gli stessi personaggi o gruppi di potere. Viviamo in un tempo dove sempre di più gli unici valori per le persone sono il denaro e l'apparenza. Bisogna dimostrare a ogni costo di essere o di avere qualcosa in più degli altri, e concetti come la solidarietà e l'uguaglianza risultano sempre più rari. Viviamo in un paese dove già più di 50 anni fa studenti e operai si resero conto che qualcosa non stava andando nel verso giusto. Non pagherà chi avvelena i territori e i corpi delle persone, come a Taranto per esempio. Non pagherà chi ha lasciato bruciare vivi degli operai a Torino. Non pagherà. Contro lo Stato, il padre, buttate gli operai, l'elezione truffa, buttate la cambia. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer neuen Radiosendung. Tausende Mieter gehen in Berlin auf die Straße. Corona-Krise, Intensivstationen, Kanzlerkandidaten und Krisenmanagement. Auf einmal hat Deutschland ein neues Thema. Wie sorgt man für bezahlbaren Wohnraum? Come si fa ad avere le notizie delle lotte, delle cose che succedono negli altri paesi se non conosco il tedesco? Come faccio? Ma la radio! Ma la radio? Sì, ma la radio! Buonasera da Mala Radio. Stasera per voi un'intervista all'ambulatorio medico popolare per la terza puntata di Se c'è tutto c'è la salute, sul tema dell'ambiente. A seguire un ragguaglio delle notizie della settimana. Passiamo poi a una raccolta di voci dal presidio del 24 aprile contro Altaforte a Cernusco sul Naviglio. Continuiamo con una nuova puntata della rubrica sulle canzoni di lotta. Parleremo poi di resistenza in carcere. Al termine un aggiornamento sulle rivolte negli Stati Uniti. Se volete scriverci durante la trasmissione, lo potete fare via Telegram o Signal al numero 351-91-82-889. Buon ascolto e restate con noi. Ok, beh, intanto un saluto a chi ci ascolta. E questa sera vogliamo partire da alcune domande che non vogliono essere provocatorie né intendono sottovalutare il pericolo rappresentato dal contagio del coronavirus. Iniziamo però a chiederci perché si resta così terrorizzati da questo virus e si resta invece pressoché indifferenti di fronte alle stime, spesso spaventose, di decessi prematuri che l'Organizzazione Mondiale della Sanità attribuisce direttamente a patologie indotte dall'inquinamento atmosferico. E adesso invece volevamo leggervi un racconto che ci è stato mandato, visto che la puntata scorsa chiedevamo infatti se c'erano delle testimonianze di come i vaccini stanno venendo presentati sul posto di lavoro, e una persona ci ha mandato la sua testimonianza e volevamo leggervela. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale non c'è posto. Allora, torniamo in diretta con Mala Radio, sono le 21.05 in diretta da Milano, questa era Vendetta di Marrakech. Abbiamo deciso tutti e tutte di mettere questa canzone perché a quanto pare ieri lo Stato si è preso la sua vendetta personale nei confronti di compagni e di compagne che sono stati arrestati in Francia dopo una latitanza durata svariati decenni. Ma cosa succede in Italia? Allora, una notizia che è assolutamente da sapere, anche da diffondere, riguarda il licenziamento in tronco di un rider a Bologna. Intanto, vabbè, è giusto ricordare che da tempo i rider in tante città d'Italia lottano ogni giorno e anche si sono organizzati con varie forme di mobilitazione per migliorare le loro condizioni di lavoro, per lottare contro lo sfruttamento e anche contro i ricatti, soprattutto per chi non ha i documenti. E a proposito di lotte di lavoratori e lavoratrici, vicino a Milano, precisamente a Peschiera Borromeo, dove c'è una delle sedi di FedEx TNT, nella notte tra ieri e oggi c'è stato l'ennesimo picchetto messo in atto da lavoratori in lotta da tempo ormai, e la polizia e i, e la polizia ha caricato e represso duramente questo picchetto, che ha resistito e respinto le numerose cariche per tutte quelle ore. Senti, cosa ne pensi appunto della presenza della libreria Altaforte, che in realtà è sinonimo di Casa Pound qui a Cernusco? Come hai detto esattamente, il punto è che proprio non è una libreria, è una copertura di libreria. E il fatto che si stia radicando non solo Altaforte, anche Piver, che ha una sede a Cernusco, e che si stia radicando effettivamente nella periferia di Milano, è abbastanza inquietante. Cosa si può fare? Io non lo posso sapere, non posso prevedere il futuro, però sicuramente continuare a manifestare, continuare a stare in piazza, anche sotto la pioggia, sotto la neve, continuare a... Ci sarà un campeggio, vero? Ci sarà la 17ª sì. edizione di Imbricchiamoci, venerdì, da domani, dal 30 fino al giorno 2. E niente, quindi se ci puoi spiegare un po' come avverrà questo campeggio, tra virgolette, di lotto, di conoscenza del territorio. Sì, questa tre giorni è stata pensata proprio in questa zona, in quest'area, perché è interessata da questa minaccia che ovviamente non ci va giù, ovviamente non ci va giù, ovviamente non ci va giù, non ci va giù, non ci va giù. E mentre fuori per strada gli assembramenti sembrano essere quanto di più pericoloso esista, nelle carceri il fatto che siano sovraffollate non sembra essere un problema. Le carceri sovraffollate infatti sono un fatto già da ben prima del Covid, ma in questo momento questa noncuranza e reticenza a concedere misure alternative, o meglio sarebbe la libertà, rende ancora più evidente quanto i detenuti e le detenute siano considerate persone sacrificabili. Se bruciasse la città, buongiorno a tutte e tutte. Eccoci a una nuova puntata di Rararario. Sarà il meglio, insomma, tutto. Allora, io ho pensato di iniziare subito dal caso di George Floyd, tornato alla ribalta giusto 10 giorni fa. E rispetto a un anno fa, gli Stati Uniti hanno subito... Ed ecco le iniziative di questo weekend. Aspetta, scusate, lo so che è tardi, che siamo un po' per il lungo, però ci è arrivato un messaggio. No. Della serata. Sì. Posso sì, della serata. Posso leggervelo? Niente, ci dicono che come ogni giovedì sera siamo qui ad ascoltarvi. Tanti cuoricini, siete i migliori. Ok, ora per continuare con le iniziative. Qualcuno ci ascolta. Evviva. Il bello della diretta. Bene, comunque cosa che stavo dicendo? Ah già, sì, le iniziative. Certo, anche questo weekend ce n'è tantissime, infatti. Per esempio, cominciamo non da Milano questa volta. Cominciamo Vai. Da San Didero di nuovo. Sì, sono è dal canale Telegram dove sono entrata che ho pescato questo numero, al quale ho scritto questo. Ascolta, io praticamente ero in piazza un giorno, un sabato, non so specificare, grazie, è una ragazza magica secondo me, perché come se non l'ho vista, però mi è rimasto in mano questo volantino, e così da questo volantino molto casereccio, bene questo, perché la genuinità, autenticità eccetera, da questo volantino poi ho tirato fuori il canale, e dopo da lì ogni tanto invito altri e faccio questo passaparola sulla rete virtuale. Posso invitare altri eventualmente, io comunque, ecco, sì, passo parola, ecco, cioè cerchiamo di creare questo coordinamento, congiunzione, va bene. Ok, buona serata, grazie per la considerazione e touch. Ecco, dopo questo piccolo, anzi un po' grande collage, scusate, sono sempre tendente a prolungarmi nelle mie creazioni, mi diverte molto, mi dispiace per la noia, Però adesso lo interrompo perché ci sarebbero ancora 20 miliardi di cose da farvi sentire, perché sicuramente abbiamo trattato già tanti temi in questi mesi, e sicuramente quelli che ho scelto non sono i più belli né i più principali, ma sono solo alcuni, e ve l'ho cercata di buttare lì anche un po' scherzosamente per passare un po' la noia, perché adesso ci terrei invece a presentarvi veramente il progetto della radio e provare a coinvolgervi, se vi va. Ciao a tutti, io non posso essere alla vostra cena, ma sono molto felice di potervi raccontare qualcosa sulla nascita di questa radio. Allora, Mala Radio è nata da un gruppo di persone, è nato da un sentimento condiviso, colto da molte persone a Milano, di questa mancanza di un racconto collettivo di ciò che non appare sui media mainstream, delle persone che incontriamo nelle nostre lotte, di un racconto quindi diretto. Quindi poi da due manciate di persone che quatte si sono messe a cominciare a far scricchiolare le casse del cuore in gola e a far stridere le vostre orecchie e far mettere le mani nei capelli, ovviamente, alle persone molto numerose a cui abbiamo chiesto aiuto. Prezioso e alla loro pazienza. Questa grande sfida di DIY ancora in divenire. No. Interrompo sicuramente subito di romanzare la nascita della radio, perché per noi che l'abbiamo fatta nascere è stato un percorso divertente ed elettrizzante, che condividere è divertente e condividere soprattutto i piccoli aneddoti fa sorridere, ma finirebbe solo per escludere o creare un senso di distanza. Infatti noi siamo qui oggi, io purtroppo no, perché mi trovo in un passaggio sbagliato della drammaturgia della mia esistenza, ma appunto dicevo che questa radio nasce da un sentimento che era già nell'aria da molti compagni, compagne e non solo, ed era nell'aria soprattutto a partire dal lockdown, a me è sembrato. C'era infatti in quel periodo un odore di grosso cambiamento, e che di lì a poco sarebbero accaduti eventi che si sarebbero susseguiti frenetici, e che il modo di interpretare la realtà ed agire in essa necessitava di un cambio almeno di paradigma o di atteggiamento, secondo alcuni, di poter fare nuove analisi e molto velocemente. Anche i rapporti interni tra compagni e i rapporti con l'esterno del nostro micromondo dovevano essere rafforzati, questo nonostante molte realtà già andassero in questa direzione. La radio può essere uno strumento forse un po' passato, qualcuno potrebbe dire. Effettivamente oggi i social sono molto più inflazionati, soprattutto tra i giovani. Ma io sono convinta che, come già dicevo in una vecchia puntata, la città e forse in generale la nostra società è segnata di muri sicuramente visibili, che sono quelli già contro i quali noi da decenni lottiamo, ma anche da muri invisibili che sono sempre controllati e influenzati da chi erige i muri, quelli materiali contro cui già sbattiamo la testa. I social, internet, sono il mezzo di comunicazione più usato al momento, ma quanto è dispersivo? Quanto rimane una riflessione, un racconto, un incontro da quello spazio, da ciò che si dice lì? C'è già una radio a Milano, Radio Cane, che negli anni ha creato un repertorio di narrazione storica ingente e importante, e a mio parere di grandissima qualità. L'intento di Mala Radio è quello di non sostituirsi a quello a Radio Cane, sicuramente già utilissima, ma è di dare un altro taglio, più di sintesi, immediato, e più presente anche proprio per strada, come durante lo sgombero di Iglesias, ad esempio, o come i contributi nati dall'incontro incidentale di gente ai cortei non Green Pass, o nel mio reparto psichiatrico ultimamente, o nelle lotte dei lavoratori della logistica, o come tanti ancora tanti incontri che possiamo fare. In 5-6 non arriveremo molto lontano, anche se siamo cariche come dei peperoncini. Questi momenti di incontro, come quello organizzato stasera dai due poverini rimasti della radio, con l'aiuto, spero, di altre persone, sono proprio l'intento è proprio quello di coinvolgere anche voi, ai vostri sguardi, i vostri pensieri, le vostre voci, e le voci di chi incontrate. Più si è, meglio è. Per decisione condivisa, noi ci siamo dati un metodo di lavoro sia assembleare, ma senza pressione, perché non ci vediamo con un'avanguardia che si deve sacrificare per gli altri, ma come delle persone normali, come tutte le altre, con i nostri ritmi e i bisogni da rispettare, perché non vogliamo più arrivare, come purtroppo è successo a me, allo sfinimento. Quindi abbiamo deciso di rinunciare alla cadenza settimanale, anche se era bella e trovarsi insieme in un posto, in collegamento settimanale con altre persone e sapere che in altri posti c'erano persone che si incontravano solo per ascoltare la radio e ascoltavano le nostre riflessioni era elettrizzante. Però abbiamo deciso di cambiare modalità, chiaramente togliendo qualcosa all'incontro reale del piccolo gruppo che si occupava della radio, ma ampliando l'incontro reale invece con il resto della gente e dei compagni in senso più largo. Ma si è chiaramente perso un po' l'incontro metaforico del giovedì sera. E questo a noi dispiace, però per ora le forze non ci sono. Speriamo ci saranno in futuro di nuovo. Infatti questa modalità ci portava un po' di stress, perché ci beccavamo due volte a settimana e comunque non sapevamo quanta gente riuscivamo a raggiungere, perché ancora nessuno ci conosceva. Ed essendo pochi ci portava anche ad una sorta di opinionismo sulle storie nascoste di altri, che poi non avevamo mai tempo di andare a incontrare veramente. E la nostra opinione vale sicuramente, ma non è questo che vogliamo fare con Malaradio, perché poi diventa limitante per tutte e tutti. Quindi preferiamo fare puntate quando ci vengono, quando c'è qualcosa di importante da registrare. Pensate durante il lockdown, se questo strumento fosse già stato presente, avremmo avuto un sacco di registrazioni di tutto quello che è successo, quanti passaggi non sarebbero stati perduti nell'oblio naturale della nostra economia mentale. Fin qui ho parlato, di informazione, riflessione, ma la radio può essere anche creatività, musica. Vedete ad esempio il programma dei Suspenders, loro fanno un approfondimento settimanale sulla musica. Ma la radio può essere anche uno scambio di saperi derivanti da tutti i percorsi di autoproduzione e gli studi di cui la nostra microcomunità è ricca. Perché come ultimamente una compagna diceva durante un incontro, riferendosi ad un'altra lotta, quella lotta è già vinta, anche se non si è stato evitato il grande progetto. Si è creata una comunità e quella è dura a morire, è dura a combattere. Il link streaming c'è e va 24 ore su 24. Se ci saranno cose da mandare in onda, ognuno può farlo. Si può fare anche in casi eccezionali, tipo sgomberi e grandi eventi. La fantasia sta a tutti, ce l'abbiamo tutti e possiamo inventarci programmi di tutti i tipi. Audiolibri, letture, riflessioni, strisce di notizie, commenti, ne facciamo 20 miliardi su Facebook, si possono fare anche in radio per esempio. Per ora ci accontentiamo un po' di tutto perché non perché non vogliamo puntare alla qualità, ma perché vogliamo appunto puntare alla tempestività. La qualità arriverà col tempo e questo è il bello del DIY, credo. Spero che questa mia presentazione possa stimolare confronti e critiche e suggerimenti, e sono molto curiosa di ascoltarli quando uscirò da qua. Ci tengo ancora a dire che Mala Radio è di tutte e tutti e vuole essere una sorta di voce della memoria di tutti. No, e vuole essere una sorta di voce della memoria per l'azione e raccontare storie che altrimenti rimarrebbero precluse dallo sguardo storico. Buon appetito! Bene, a questo punto vi auguro veramente buon appetito, spero che abbiate ascoltato almeno una parola di quello che è stato trasmesso, altrimenti lo caricherò comunque sul podcast e ve lo ascolterete in un altro momento in una stanza da soli. E vi auguro una buona serata, mi piacerebbe molto essere lì con voi. Comunque più tardi vi farò ascoltare anche il resoconto di quello che è successo oggi in Sardegna. Ciao, a presto! Questa canzone va un attimo introdotta, è di una ragazza che ho incontrato nel reparto psichiatrico del San Paolo, che secondo me è molto promettente e in 3 giorni di lavoro siamo riusciti a sopportare la permanenza nel nostro reparto registrando questa canzone che lei aveva scritto a 14 anni, ma che essendo screditata da sempre da chi le stava intorno, non aveva mai avuto il coraggio di cantare. E insieme ci siamo messe così, un po' sperimentando il programma, a fare la canzone. Secondo me è molto promettente. Piano Nolle Freestyle. In Adri Marte sul beat, fatti sto viaggio. Ecco, lo vedi nello sguardo, quel demone mi ha fatto innamorare e diventare un fottuto bastardo. In ogni fottuto pensiero che facevo sempre in ritardo, tardo. Scusa per ogni mio sbaglio, per ogni suo taglio, questa melodia è una baglia che fioresceva dal mio spiraglio. Ritaglio ricordo prima che vada a repentaglio. Riempio un altro bagaglio per cessare quel travaglio, questa volta non sbaglio. Ogni istante, ogni momento, una lotta pugilato che reggo a stento. Non c'è consentimento, provato più birre che sentimenti. Se non mi senti, alza il volume della traccia. Questo beat ti mangia, ti mastica, poi ti sputa. Tu versami ancora cicuta, mentre vorrei dirti che tutto questo non mi aiuta. Che tutto questo non mi aiuta. Siamo dei signori sognatori, tutto quello che ci rimane, tutto quello che tu adori, metti gli amplificatori, gli amori, gli ammortizzatori per i dolori, ignorando gli ardori creati da falsi attori. Siamo in una società materiale, non ci insegna più a lavorare, ma ad abbandonare, rimanendo capaci di abbaiare, incapaci di creare qualcosa di speciale. E non ti far abbindolare, se tutto va a puttane, lascia cicatrizzare, ti voglio collare un affare che ti faccia affascinare, ci sarà da faticare, non arriveremo sull'altare, ma sulla fastellare, ma tu comodo a sedere e comincio ad attaccare. Come se il tuo sguardo sapre sembrare ciò che hai sempre voluto gettare, vacillare tra un auricolare, un borbottare di parole che tu non sei mai riuscito a bazzicare. Siamo in una realtà distorta, pensa a seguire sempre la strada più storta. Pompo la horta, chiudo il portone nella porta, poco ci importa. Ero una piccola dama in pigiama che sognava di arrivare lontano. La strada non chiama, sa che per lei tirare fuori la lama, per ogni prosa richiama, per ogni prosa richiama. Per ogni prosa richiama in queste etnie materiali che ci insegna solo ad abbandonare, incapaci di creare qualcosa di speciale, capaci solo ad abbaiare, capaci solo ad abbaiare. No, trema. Thank you. Ad interrompere di nuovo la vostra cena, spero che la nostra cuoca d'eccellenza vi abbia preparato delle grandi buone leccornie. Dalle foto che mi hanno mandato mi sembra proprio di sì. E adesso vorrei mandarvi invece i contributi audio che ci hanno mandato i nostri due inviati speciali in Sardegna, che ci raccontano un po' com'è andata oggi. Quindi niente, buon ascolto e poi spero che dopo ci risentiamo. Ciao, oggi Mala Radio si è spostata per l'occasione della manifestazione contro le basi militari in Sardegna, precisamente a Sant'Antonio Sant'Adi, limite di fronte alla base di Capo Frasca, la base militare. Abbiamo con noi un partecipante alla manifestazione del luogo che ci racconterà com'è andata questa iniziativa. Ciao, mi chiamo Giacomo. Questa è la quinta manifestazione a cui partecipo contro le basi militari e l'occupazione militare della Sardegna. Oggi ci siamo recati appunto, io sono del Cagliaritano, ci siamo recati da Cagliari qui a Sant'Antonio di Sant'Adi, dove abbiamo incontrato da subito un massiccio schieramento di forze da parte della CERER e della polizia, che ha isolato il primo gruppo partente dal Cagliaritano la mattina presto, che aveva fatto un presidio proprio di fronte alla base. Quindi noi abbiamo cercato di avanzare verso il presidio e una volta bloccati abbiamo siamo andati in direzione opposta, verso una zona in cui ci sarebbe stato poi il taglio delle reti. Il presidio ci ha raggiunto giusto in tempo e una volta percorsi un paio di chilometri siamo arrivati appunto ai limiti della base dove c'è stato il taglio delle reti e siamo penetrati all'interno. Dopo un po' la celere è arrivata e hanno cominciato a sparare dei lacrimogeni, io stesso ho subito l'effetto di alcuni lacrimogeni. Sono state tagliate le reti per qualche centinaio di metri, facciamo 500 metri, quindi la gente poteva tranquillamente entrare e uscire dal poligono. Siamo penetrati per un paio di metri, io sono rimasto un po' nelle retrovie, aiutato a togliere appunto le recinzioni. E poi appunto la celere ci ha fatto retrocedere fino al paese che appunto distava dista di fatto 2,5 chilometri, ci ha fatto appunto ritornare qua dove adesso siamo e dopo la manifestazione diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto. Grazie, e durante la giornata ci raccontavi un po' della situazione delle basi militari in Italia ma soprattutto su quest'isola, se vuoi raccontarlo anche a chi ci ascolta. Certamente, la Sardegna è la terra che più in Europa e in Italia paga il pegno delle servitù militari della NATO, più del 50%, ma la percentuale è ancora più alta, delle basi militari italiane e europee insiste sul territorio sardo. Capo Frasca è uno dei poligoni principali. Appunto, tutto il movimento antimilitarista sardo, il movimento indipendentista, perché io stesso non mi riconosco nella nazione italiana per motivi storici, identitari e politici, non accettiamo questo fatto. Non accettiamo che la Sardegna venga associata all'industria di guerra. Da poco siamo riusciti a far chiudere la fabbrica di bombe di Domus Novas, che nel sud della Sardegna, che produceva e importava bombe in Arabia Saudita per la guerra contro lo Yemen. Questo è stato un primo successo. Noi non ci vogliamo associare a un'industria di guerra, non vogliamo basi né qui né altrove che impestino il territorio e facciano morire la popolazione di linfomi e malattie rare. È successo nei territori vicino alle basi, sto parlando del poligono di Quirra, che è il più grande poligono in Sardegna, che dei bambini nascessero con delle malformazioni, che agnelli e animali nascessero già morti o comunque con un occhio, con più zampe. Sto parlando di cose veramente reali, ci sono i video a testimonianza. Noi non accettiamo tutto questo, non accettiamo il fatto che la Sardegna sia la stregua di un campo minato, un campo di esercitazioni. Poi ricordiamo anche la questione delle industrie che hanno inquinato il territorio e non sono state ancora bonificate. Le basi aspettano chiusura e bonifica, almeno noi aspettiamo questo, combatteremo fino alla fine per questo. L'ultima mano, diciamo, degli speculatori sulla Sardegna adesso è quella delle rinnovabili. Stanno progettando di espropriare per dei terreni per impiantarci paleoliche e pannelli solari. C'è anche il sospetto che i terreni, c'è la paura più che altro, che i terreni che sono andati a fumo durante gli ultimi incendi dell'estate scorsa nel Montiferru in parte possano essere ceduti ad aziende straniere e italiane che impiantino paleoliche. Ricordiamo, inoltre, punto importantissimo, che questa energia non va a beneficio dei sardi, ma viene prodotta per dare nella maggior parte alle regioni del sud Italia, Campania, Sicilia, attraverso il Tyrrhenian Link, che consiste in un cavo appunto dove tutta l'energia prodotta in Sardegna viene trasportata, come diciamo noi sardi, in continente, in Italia. Quindi ci apprestiamo a diventare un generatore elettrico per l'Italia. Grazie mille e grazie anche a chi ci ha ascoltato, chi ci ascolta. E vi ricordiamo, se ci sono domande, informazioni, che ci sono tante informazioni riguardo che si possono trovare su internet, e soprattutto c'era un video su YouTube sul poligono di Quirra, se non sbaglio. Com'è che ti ricordi, come si intitola? Allora, innanzitutto consiglio, per seguire la lotta contro le basi e l'occupazione militare e tutto lo sfruttamento della Sardegna da vicino, di seguire le pagine Aforas contro l'occupazione militare della Sardegna e Sardinia Aresti. Il documentario, per farsi un'idea di ciò che accade nel poligono più grande d'Europa, si chiama Materia Oscura ed è tranquillamente reperibile su YouTube senza pagare. Un documentario muto che mostra la situazione al giorno d'oggi e immagini del repertorio di tutto ciò che è stato sperimentato lì dentro. Grazie, grazie mille. Ciao a tutte e tutti, un breve aggiornamento barra correzione riguardo alla fabbrica di Domus Novas, che è l'RVM, che fa parte del gruppo Rheinmetall tedesco. Semplicemente che in realtà non è stata chiusa, ma non hanno rinnovato i contratti scaduti, i contratti a termine che erano scaduti. E adesso intervistiamo un'altra compagna della zona, che ci racconta un po' come si è finita a organizzare la giornata di oggi, questa manifestazione, il percorso che ha portato a decidere di fare questa chiamata e com'è andata. Vabbè, abbiamo deciso di organizzare questo corteo a Capo Frasca principalmente in risposta alla repressione e quindi al rinvio a giudizio per l'operazione Lince, che c'è stato il 14 settembre di quest'anno, in cui sono rimasti in piedi tutti i capi di imputazione, compreso il 270 bis. A fronte di questa sentenza, l'udienza preliminare, abbiamo pensato che la risposta migliore che potevamo dare era tornare fuori dai poligoni e quindi ci siamo trovati per due mesi in una trentina, quarantina di persone in assemblea per capire quale fosse il poligono migliore, quale fosse il metodo migliore. Fondamentalmente il nostro metodo da sempre è: tagliamo le reti, blocchiamo le esercitazioni, e quindi questo abbiamo deciso di fare. Abbiamo scelto la domenica, che è un giorno in cui le esercitazioni non ci sono, per essere il più inclusivi possibili per le persone che lavorano, quindi sapevamo che oggi non ci sarebbero state esercitazioni in corso. Abbiamo scelto il poligono di Capo Frasca perché è il più centrale della Sardegna e quindi è il più facilmente raggiungibile da tutti, e in più si sta aprendo nel 2022 all'aeroporto di Decimo Mannu la scuola internazionale di volo, che ha due sedi, una a Decimo Mannu e una in Puglia, e ricordiamo che dall'aeroporto di Decimo Mannu gli aerei militari partono e bombardano su Capo Frasca, che quindi è proprio il poligono su cui bombardano. Quindi abbiamo deciso di farla lì per questi motivi. Diciamo che l'organizzazione è stata contorta, come sempre noi, oggi siamo arrivati lievemente impreparati al concentramento, perché la questura, che ci aveva dato delle prescrizioni, oggi le ha rimesse in discussione, quindi fondamentalmente negandoci parte del percorso del corteo che ci avevano autorizzato. Però siccome in questi due mesi di organizzazione, di sopralluoghi, ne avevamo fatti tanti e il territorio lo conoscevamo abbastanza bene, a fronte di uno schieramento di polizia abbastanza importante, ci siamo girati, siamo andati da un'altra parte, abbiamo trovato una stradina che non era presidiata, siamo arrivati alle reti, ne abbiamo tagliate una quarantina di metri, e tutto il corteo è entrato dentro alla base militare. Ci hanno cacciato con un sacco di lacrimogeni, però insomma, diciamo che nel complesso la giornata è andata molto bene, molto bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille, e grazie a chi ci ascolta, e per chi è stasera alla cena di autofinanziamento di Malaradio, buona cena e seguiteci. Ecco, questo è stato il resoconto di quello che è successo oggi in Sardegna. E anch'io vi auguro ancora un buon fine serata. Non so se volete, dopo che ci risentiamo, semplicemente chiamatemi, io lascio ancora un po' di musica. Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna, contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità, cammino e canto la rabbia che mi fa, penso a tanta gente. Si je ne fais plus la fête, ou si sereine, nous fais-tu juste la guerre? La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. Blague à part devient loup sa part. Seul, seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce et sereine, où fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, seul, seul, je veux être seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse.